Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 9 minuti, un'altra puntata di Focus Economia è appena iniziata, un'altra giornata di passione sui mercati sta finendo invece, perché lo dico, perché adesso Piazza Affari guadagna addirittura uno 0,20% grazie soprattutto ad Exor, quindi la controllante del gruppo Fiat, che è in rialzo anche oggi e di un 5%, ma la giornata è stata di passione perché abbiamo visto di nuovo andare molto male i bancari, poi Milano si è spostata verso il pareggio, trainata anche dai dati sul PIL americano nel terzo trimestre, che sarà notizia di questo programma oggi, più 3,5%, e dall'apertura più che positiva di Wall Street adesso guadagna lo 0,80%. Dicevo, i titoli bancari, Monte dei Paschi è arrivato a perdere il 10% e anche di più, ventilata la possibilità che lo Stato venda il Monte Bond a investitori privati, ne parleremo nel corso dei mercati finanziari. In questo momento il Monte dei Paschi perde l'8%, l'ENI, che ha diffuso i dati, la trimestrale oggi, utile nei primi 9 mesi a 3 miliardi e 700 milioni di euro, un 36% di calo l'utile netto dell'ENI, ma quello adjusted, quello più importante, è a 3 miliardi 240, in aumento del 3%. Tra l'altro, soddisfazione da parte dell'amministratore delegato Descalzi, il titolo guadagna l'1,30%. Bene anche Luxottica, più 2,70, Autogrill più 2,20. Male oggi il Monte dei Paschi in primo luogo, ma anche le altre banche, il Banco Popolare meno 2%, Popolare di Milano meno 1,40%, Popolare Emilia Romagna meno 1,20%, anche dopo le dichiarazioni del presidente dell'EBA, l'EBA è l'autorità bancaria europea, e Andrea Enria, il quale ha detto gli stress test non sono infallibili e i risultati di quelli pubblicati dalla Banca Centrale Europea sulla base di Basilea 3, completamente implementata, fully loaded, questo è l'inglesismo, mostrano che le banche hanno ancora del lavoro da fare in tema di adeguatezza patrimoniale. Poi ci sono casi di borsa più singolari, mi riferisco a Carraro che perde il 7,44% per il cambio dell'amministratore delegato. Di questo parleremo, come parleremo chiaramente del dato sul PIL americano, della TAV, perché bisogna dare onore al merito e quindi ai colleghi del quotidiano Sole 24 Ore per essere stati i primi a evidenziare quello che è successo sui costi della Torino-Lione. Ora, chi ascolta da tempo questo programma sa che noi abbiamo sempre detto che se c'è un accordo per il corridoio 5 va rispettato, e quindi no TAV, però rispettare un accordo per il corridoio 5 è una cosa, che è il corridoio Lisbona-Kiev, dei corridoi transeuropei. Altra cosa è spendere più del dovuto. Ora, cercheremo di capire perché i costi della TAV Torino-Lione siano lievitati da 4,8 a 7 miliardi. C'è un nuovo accordo con le Ferrovie dello Stato, un accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e la rete RFI, di cui nessuna riconoscenza, ha precisato il vicepresidente della Commissione Trasporti del Senato Stefano Esposito. E a questo punto, se venisse confermato questo aumento dei costi, l'opera sarebbe scoperta per quasi 2 miliardi di euro. E anche di questo parleremo, così come appunto delle altre notizie, e daremo anche aggiornamento sulle dichiarazioni del ministro Guidi, ma non solo, parte di queste dichiarazioni le avete già sentite nel GR24 su quello che è capitato ieri con i dipendenti della ST di Terni, mi sembra insomma che ormai sia assolutamente appurato, viste le dichiarazioni anche del ministro Alfano e del ministro Guidi, che è stato un errore caricarli, basta, tagliamola lì. Si poteva trovare un altro modo, c'è stato un scarso coordinamento, un eccesso, quello che, chiamatelo come volete, è stato un errore, non oltre che politico, anche e soprattutto umano, caricare i dipendenti della ST Terni, anche perché poi questo, insomma, apre a nuove tensioni di cui non si sente proprio il bisogno. Dicevamo 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, qualcuno vuole sapere del petrolio. Il petrolio è sceso a 81,2 dollari al barile, è sceso di un altro 1,2% oggi. Dell'Eni abbiamo detto, così come del PIL americano, ne parleremo nella seconda ora, più 3,5% oltre alle attese la crescita dell'economia americana. E a trainare l'economia a stelle e strisce è la ripresa degli investimenti, da un lato, e dell'export dall'altro. C'è anche una componente importante delle spese militari. Rallenta invece la crescita economica in Spagna, che resta in crescita, quindi più 0,5%, ma in rallentamento rispetto allo 0,6% del trimestre precedente. Per la Spagna comunque è il quinto trimestre consecutivo di crescita economica, purtroppo noi non possiamo dire la stessa cosa. Invece l'inflazione anche in Germania si avvicina alla non inflazione o a quasi la deflazione, perché resta allo 0,8% a ottobre, ma l'indice armonizzato dei prezzi riferito ai criteri europei segnala un'inflazione in Germania allo 0,7%. Gli analisti si aspettavano un leggero rialzo invece dell'inflazione in Germania. La Banca Centrale Europea si aspetta che gli acquisti di ABS, dei prestiti cartolarizzati, partano a novembre, dopo la pubblicazione della documentazione legale. Sostanzialmente la Banca Centrale Europea andrà a comprare questi crediti che le banche vantano nei confronti di soggetti di alta qualità, senior o al massimo mezzanine se sono garantiti. Le società di gestione che eseguiranno questi acquisti saranno la Deutsche Bank, ING, State Street e Amundi, che condurranno le operazioni su esplicita istruzione della Banca Centrale Europea. Veniamo all'Italia. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan ha oggi annunciato che l'Italia proporrà all'Unione Europea 1.000 progetti per un totale di 10 miliardi di euro, progetti di investimento per un valore superiore addirittura ai 10 miliardi di euro, e verranno proposte alla Task Force Europea sugli investimenti. L'Italia presenterà più di 1.000 progetti suddivisi in 5 grandi settori per un totale superiore ai 10 miliardi che potranno essere finanziati con fonti pubbliche ma anche private. Speriamo di poter identificare molti progetti per piccole e medie imprese e nel sud. Bisogna lavorare per aumentare la capacità delle imprese italiane a fare progetti profittevoli e quindi che possano trovare finanziamento sul mercato presso fonti pubbliche. E tra questi, diciamo, ci saranno 5 settori in cui saranno orientati questi 1.000 progetti, dalla banda ultralarga all'alta velocità Napoli-Bari. Sono i famosi progetti infrastrutturali, visto che Juncker ha detto che ha 300 miliardi di investimenti da mettere, insomma 10 miliardi su 300 è poca cosa, vediamo se poi questi soldi ci sono, perché in realtà alcuni osservatori fanno notare che di soldi nuovi e freschi l'Europa non ne ha messi. E assomiglia un po' a una promessa con le tre carte, ma vedremo, vedremo. La vicenda AST di Terni. Vedo alcuni messaggi. Io non ho detto di sorvolare sulla vicenda, ho detto una cosa diversa, ho detto che è stato un errore la carica della polizia. Non se ne occupa di questi temi in questo programma. Ieri ci siamo occupati del perché un gruppo che è un gruppo di eccellenza sia in crisi, della vicenda ThyssenKrupp, dell'antitrust europeo miope è antistorico, visto quello che capita nel mondo dell'acciaio a livello mondiale e dei colossi mondiali globali che si stanno generando. Noi stiamo ancora lì a guardarci la punta dei piedi, e di come si tengono assieme vicende come la SRT di Terni con Piombino, con Verona, la Galtarossa, e soprattutto con il più grande polo siderurgico europeo che resta quello dell'Ilva di Taranto. E cosa vorrebbe dire avere un investimento da parte di stranieri nell'acciaio? Ho solo detto, rispetto ai disordini e alla carica della polizia, che è stato un errore caricare gli operai, ma il riferimento era alle dichiarazioni anche di oggi del ministro Alfano e del ministro Guidi. Tra l'altro Alfano ha dichiarato su questo: nessun operaio è stato denunciato. E poi ha detto: attenzione, l'intervento di Landini ha contribuito a riportare la calma, serve un senso di responsabilità di tutti per evitare una scintilla che rischierebbe di innescare pericolose derive. Così appunto il ministro all'interno nell'informativa al Senato. Al corteo è stato inutilmente intimato l'ALT, per cui si è in breve arrivati ad un concitato contatto fisico tra manifestanti e polizia, da cui è conseguito il ferimento di 4 manifestanti e di 4 operatori della polizia di Stato, un funzionario e 3 agenti del reparto mobile. E poi è sopraggiunto il segretario generale della FIOM, Landini, il cui intervento ha contribuito a riportare la calma fra i manifestanti. In seguito ha avuto avvio un breve negoziato per l'autorizzazione ad effettuare un corteo verso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, che si è conclusa positivamente con la definizione di un percorso concordato. Il corteo è quindi giunto senza incidenti presso la sede ministeriale, dove il segretario della FIOM, unitamente ad una decina di delegati, è stato ricevuto dal ministro Guidi. I fatti che ho appena ricostruito sono stati naturalmente oggetto di referto all'autorità giudiziaria, nel quale nessun manifestante è stato denunciato. Nessun manifestante è stato denunciato. L'amarezza della giornata di ieri sta proprio nel fatto che il lavoro, questione oggi centrale nel Paese, in Europa e dovunque si voglia garantire un futuro di speranza e di progresso, sembra diventare lo scenario di una contrapposizione tra lavoratori. Dobbiamo evitare, esercitando un grande senso di responsabilità e valorizzando tutte le nostre capacità di attenzione e di dialogo, che il difficile momento di crisi possa rappresentare l'involontaria scintilla di conflitti e tensioni che rischierebbero di innescare pericolose derive. Così il ministro Alfano. Scrive un ascoltatore: ci vorrebbe Bava Beccaris agli interni, ma tanto lei non sa neppure chi era. Purtroppo so chi era Bava Beccaris, e lui usava le cannonate a Milano, se non ricordo male, contro i manifestanti. Però lei si definisce da solo con questo messaggio, va bene così. Invece è chiaro l'appello che fa il ministro agli interni, nel senso che dice obiettivamente non ha lo scontro con gente che manifesta per mantenere il diritto a lavorare. Allora tutti hanno il diritto di manifestare per qualunque cosa, ma manifestare, arrivare allo scontro con le forze dell'ordine quando tu stai manifestando per mantenere il posto di lavoro, è una cosa veramente che non vorremmo vedere mai, gli scontri. Ma diciamola tutta, è diverso se tu hai un gruppo di Black Bloc che vogliono sfasciare le vetrine, o se hai degli operai della Thyssen che sanno della ST Terni, che sanno di lavorare in un gruppo d'eccellenza che per motivi internazionali, di scelta della capogruppo, di decisione idiota dell'antitrust europeo, rischiano di perdere il posto di lavoro. Non li possiamo tutti trattare nello stesso modo. Comunque andiamo avanti su questo, no, perché sennò poi diventa difficile ragionare di qualunque cosa. Il ministro Alfano ha sempre sul diritto a manifestare come elemento sacro. Nessuno immagina però che nel pieno delle vertenze, dei negoziati, tutti i lavoratori attendano passivamente l'esito di essi. e nel pieno del loro diritto costituzionale manifestare liberamente il proprio pensiero, anche in modo aspro e sempre nei limiti della legge. Per noi il diritto a manifestare è sacro e la sacralità di questo diritto è custodita dentro la teca delle regole poste a presidio dell'ordine pubblico, in modo che la libertà di chi manifesta non leda o comprima le libertà e i diritti degli altri cittadini. Invece adesso alla vicenda della Sette Terni. Allora, il ministro Guidi oggi ha assicurato, il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi, che AST si è detta disponibile a rafforzare il piano industriale, contando le mobilità volontarie resterebbero sul tavolo circa 140-150 esuberi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono 140 lavoratori che andrebbero volontariamente, uscirebbero dall'azienda, e gli esuberi veri e propri sarebbero 140-150. Sempre il ministro Guidi ha detto di credere al fatto, alla disponibilità dimostrata dall'azienda AST a rafforzare e robustire il suo piano industriale. Io ci credo e credo, insomma, e questo è il mio auspicio, che con senso di responsabilità questo deve essere lo sforzo di tutti, dei lavoratori, dei sindacati, del governo, dell'azienda. Noi dobbiamo preservare quel sito produttivo e dobbiamo far sì che quel sito produttivo sia prima di tutto un'azienda capace di competere sui mercati internazionali, capace di mantenere stabilmente da un punto di vista proprio industriale le produzioni e soprattutto capace di intercettare una crescita che ci auguriamo naturalmente prima o poi in Europa ma anche nel resto del mondo ci sarà sull'acciaio, rendendola strutturalmente competitiva, perché io credo che, come dire, l'unico modo per essere certi e sicuri che qualunque azionista ci sia, un'azienda, ma si mantenga sul territorio, è che sia un'azienda che è capace di generare naturalmente profitto, e quindi le aziende redditizie sono quelle che danno la maggiore sicurezza in primis per i lavoratori, che è naturalmente la nostra prima preoccupazione. L'azienda ha confermato un livello massimo di esuberi eventualmente quantizzabile in 290 esuberi, alcuni dei quali, circa 140 persone, sono già uscite dall'azienda attraverso la procedura di mobilità incentivata e qualcuna anche attraverso dimissioni. Quindi, come dire, oggi rimane sul tavolo e ci rendiamo conto che comunque è naturalmente un aspetto importante del quale noi ci facciamo caso. Naturalmente, perché capiamo che comunque ogni posto di lavoro naturalmente è importante. E poi la posizione dei sindacati, oggi è intervenuto al termine dell'incontro a Palazzo Chigi proprio sulla AST anche lì della FIOM Maurizio Landini, e ha detto: beh, se l'azienda conferma il piano siamo disponibili ad aprire un tavolo di trattativa. Sulla vicenda Thyssen il punto da cui si era partiti era un piano industriale presentato da Thyssen a luglio, giudicato da tutte le organizzazioni sindacali inaccettabile, perché arrivava la chiusura di un forno e un secco ridimensionamento dell'acciaieria, mettendo in discussione l'integrità delle produzioni che oggi si fanno all'interno della Thyssen. Noi, nell'informazione che ci è stata data questa mattina dal governo, abbiamo dato la nostra disponibilità a riprendere una trattativa se sarà convocata, abbiamo valutato positivamente le novità introdotte, riteniamo che sia necessario che l'azienda nella ripresa delle trattative confermi le cose dichiarate al governo affinché un nuovo piano industriale diventi la base di una nuova trattativa, un nuovo piano industriale che abbia appunto la caratteristica di garantire l'integrità delle attuali produzioni e che permetta la presenza dei due forni e la possibilità di avere un piano di investimenti, una prospettiva anche nei prossimi anni che vada nella direzione di una qualificazione e di un miglioramento delle attività produttive, di gestione. E poi E poi diciamo la tenuta sociale del paese, ecco perché bisogna sempre stare attenti quando si twittano frasi un po' leggere sul posto fisso, non posto fisso, i sindacati. Attenzione, attenzione. Allora, il ministro Delrio oggi al termine dell'incontro, sempre a Palazzo Chigi sulla ST, sottosegretario al presidente in realtà del Consiglio Graziano Delrio, ha detto: attenzione, nessuno in questo governo ha mai detto di alzare i manganelli sui lavoratori. Beh, vorrei anche vedere le dinamiche dell'episodio di ieri, saranno chiarite nelle prossime ore. Il paese è provato da anni di austerità e crisi e questo è indiscutibile. Per questo vogliamo accelerare sulle riforme, per rilanciare imprese e attrarre investimenti. Nello stesso tempo però non c'è un problema di tenuta sociale. Il sistema democratico è molto solido, organizzazioni come quelle sindacali sono molto solide e in momenti decisivi hanno aiutato a uscire dalle crisi. Tutti dobbiamo fare uno sforzo in più per unire intenzioni e non dividerci. Non credo che ci sia un problema di tenuta sociale nel paese. Il paese è molto provato da anni di austerità, da anni di crisi, una crisi profonda che ha inciso profondamente nelle abitudini degli italiani, che ha inciso profondamente sul loro tenore di vita, quindi è indiscutibile che il paese è provato e questo è il motivo per cui noi vogliamo così tanto accelerare sulle riforme che cambiano il paese, sulle opportunità da dare alle imprese perché possono ritornare a assumere, a espandersi, per attrarre investimenti. È chiaro che stiamo accelerando molto perché abbiamo coscienza del grado di sofferenza che hanno le famiglie, le imprese, i lavoratori. Nello stesso tempo devo dire che non credo che sia a rischio la tenuta sociale. Noi abbiamo, credo, un sistema democratico molto solido, abbiamo organizzazioni a partire dai sindacati molto solide che in momenti molto più critici hanno dato un aiuto decisivo a uscire da crisi profonde. È un paese vivo e serio. È chiaro che in momenti di grande sofferenza tutti noi dobbiamo fare uno sforzo in più per provare a unire gli sforzi, diciamo così, e le intenzioni invece che a dividerci. Allora, vedo anche dei messaggi sui sindacati. Adesso i sindacati servono, prima non servivano. Diciamo questo: da quello che abbiamo capito, il ragionamento del Presidente del Consiglio è il seguente: i sindacati servono nelle trattative sindacali con le aziende, quindi con trattazioni di secondo livello, di primo livello, contratti nazionali o contratti locali. Renzi ha sempre detto non possono essere le parti sociali, quindi inclusi i sindacati, i corpi intermedi, l'associazione di rappresentanza. Non, quando dobbiamo fare una legge finanziaria non possiamo aspettare il sì o no o avere i veti incrociati delle varie associazioni di categoria, noi le facciamo e basta, senza aspettare la concertazione che blocca il paese. Questa è, diciamo, la doppia valutazione. Detto questo, è vero che ci si può anche mettere d'accordo, perché se Delrio riconosce che i sindacati hanno anche la forza di aiutare la tenuta sociale del paese, è un riconoscimento importante di cui il governo dovrebbe tenere conto. Altri dicono: ma come, adesso lei difende i sindacati? No, non difende i sindacati, sto riconoscendo quello che dice Delrio, e questo, diciamo, è sicuramente un ruolo che va riconosciuto al sindacato. Ho meno voglia di riconoscere invece altre cose. Pensiamo per esempio alla vicenda di Bonanni ieri con le manganellate, passatemi il termine, ancora calde. Non ci sembrava il caso di polemizzare su Bonanni, ma io mi chiedo come sia possibile, tra l'altro oggi non ho visto nessuna dichiarazione da parte di Bonanni stesso, che l'ex segretario della CISL Raffaele Bonanni vada in pensione con 8.600 euro lordi al mese e quindi 5.390 euro netti al mese. Avrebbe sfruttato gli ultimi anni della guida del sindacato per allargare i suoi compensi, passando dagli 80.000 euro lordi guadagnati nel 2006 prima di arrivare al vertice, ai 336.000 euro lordi del 2011, l'anno del pensionamento. Tra l'altro questo tetto è ampiamente superiore a quello chiesto e su cui abbiamo fatto anche noi una grossa campagna di informazione ai manager pubblici, a 240.000 euro. Il regolamento interno della CISL prevede un aumento del 30% a chi viene nominato segretario generale. Quindi Bonanni, che guadagnava 80.000 euro lordi, ne avrebbe dovuti guadagnare 100.000 euro lordi. Nel 2006 la CISL dichiara all'INPS una retribuzione lorda ai fini contributivi di 118.000 euro lordi, già un po' più alta di quella prevista. Le stranezze però, caro Bonanni, arrivano negli anni seguenti. Nel 2007 infatti la sua retribuzione complessiva dichiarata all'INPS, tutto legale, tutto pubblico, è di 170.000 euro lordi l'anno, più 45%. Un po' strano, perché il vostro regolamento prevede un 30% come aumento di stipendio quando fai il segretario. Lei ne prendeva 80.000, avrebbe dovuto essere a 100.000, era già a 118, mo' arriviamo a 170. Nel 2008 aumenta ulteriormente, 200.000 euro lordi l'anno, più 17%. L'evoluzione è spettacolare, perché nel 2009 la retribuzione è di 255.000 euro, più 26%. Nel 2010 a questo punto sale di un altro 270, arriva a 270.000 euro, e nel 2011 schizza a 336.000 euro, con un aumento del 25%. Allora, vediamo di capirci. Caro segretario della, ex segretario della CISL Raffaele Bonanni, molte volte abbiamo discusso sul fatto che la CISL possa rappresentare ancora i lavoratori o più i pensionati o troppo il pubblico impiego. Queste sono discussioni normali, fisiologiche. Voi dite di no, voi dite che siete per la meritocrazia nel pubblico impiego. Quando ne abbiamo parlato anche in diretta abbiamo ribattuto che così non ci sembrava, ma questo fa parte, diciamo, della dialettica. Io mi chiedo come lei possa giustificare ai suoi rappresentati, che nel frattempo hanno visto crescere la disoccupazione a livello record e a livello storicamente record, la cassa integrazione schizzare, gli stipendi abbassarsi, come lei possa giustificare un aumento della sua retribuzione. Non sto parlando della pensione, io vorrei capire come mai il segretario della CIS nel 2007 fa più 45% di retribuzione, nel 2008 più 17%, nel 2009 più 26%, nel 2010 più 4%, nel 2011 più 25%. Dov'è il merito? Qual è il motivo? Esiste un premio per raggiungimento degli obiettivi anche nei sindacati? Non lo so. Esiste un bonus? Non lo so, mi sembrerebbe strano. Come si giustifica un aumento spettacolare che avrebbe fatto gridare allo scandalo i sindacati stessi se fosse avvenuto nella politica o anche nel settore privato e nei manager? Bonanni immagino che vorrà risponderci anche su questo. Wanted more for life than he could give. 17:41 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sì, lo stiamo cercando, Bonanni, e se arriverà e vorrà risponderci, gli chiederemo il perché di questa incredibile escalation contributiva del suo stipendio. Invece, come vi ricorda anche la nostra sigla, la nostra base, vorrei tornare sul tema, perché novità non ce ne sono. Molti di voi mi chiedono: ci sono novità? No, non ci sono novità. Per ora è ancora confermato il taglio da 100 milioni di euro su 350 milioni per il fondo per le disabilità. In realtà, praticamente da questo punto di vista, per gli non autosufficienti, il fondo per la non autosufficienza, quindi quasi il 30% in meno. Matteo Renzi, lo ripetiamo ogni volta, ha promesso che correggerà la cosa, ma ancora non è cambiato nulla. Per ora, nella versione firmata dal Capo dello Stato, la finanziaria prevede 100 milioni di euro in meno, e il 4 novembre la mobilitazione vi sarà dei genitori e delle associazioni che rappresentano le persone con disabilità. Tra l'altro la legge di stabilità, la finanziaria 2015, prevede anche un calo di 17 milioni del fondo per le politiche sociali, nato nel 2008 con 920 milioni e sceso ormai a 317, a 300 quest'anno. Noi continuiamo con il nostro appello. Poi la finanziaria deve andare in Parlamento e tutti i giorni lo ricorderemo, visto che si parlava anche, insomma, dei soldi, degli sprechi. Non posso ricordare, lo dico, che sta scrivendo ogni volta tutti i modi in cui potrebbero essere riperiti questi 100 milioni su 32 miliardi di manovra finanziaria e 840 miliardi di spesa pubblica ogni anno. Tra l'altro sono stati tutti rinviati a giudizio, è stato chiesto il processo per inciso per tutti gli ex consiglieri del Pirellone accusati di spese pazze, la Minetti, Bossi Junior, il Trota e quant'altro. Lo ha chiesto il procuratore aggiunto Alfredo Robledo e il PM Filippini ed Alessio. Il totale delle spese contestate dagli 62 ex consiglieri arriva a 3 milioni di euro per il periodo dicembre 2012 gennaio 2013, quelle, le spese ritenute illegittime erano già note da quel periodo, riguardano cene, pranzi e ristoranti, pizzerie, enoteche. Abbiamo raccontato di tutto, no? Mettevano dentro tutto, il figlio di Bossi, Renzo Bossi, metteva gli spazzolini, le focacce, le sigarette, gli integratori di Gatorade, delle birre, la Red Bull, l'iPad. 15.000 euro di spese apparentemente per rappresentanza. Nicola Minetti, 19.000 euro, famoso il libro Mignottocrazia, pranzi e cene in ristoranti giapponesi. E Pierluigi Toscani, leghista, coppetti di gelato, gratta e vinci, pizze, cannoli, ciambelle, 27.000 euro in totale, e anche 752 euro delle cartucce per la caccia. Non posso farla tutta, dai, c'era il catering da 3.300 euro di un altro leghista, Roberto Pedretti. Roberto Alboni ha speso anche a 72.000 euro contestati del PDL, e tra cui 50 euro per un mazzo di fiori, che forse, se vogliamo, è la nota più romantica in tutto questo, e via così. Complessivamente, sì, c'è anche Chiara Cremonesi, allora capogruppo di SEL, 66.000 euro contestati, dai Vafferini ai Viennesi Armonia, 100 euro di salumi vari, anche il necrologio ha fatto pagare come rimborso, pensate un po', 350 euro. E poi l'ex capogruppo del PD Luca Gaffuri, 10.000 euro per pranzi e aperitivi, caro Sprefico, rimborsi non dovuti per 40.000 euro in viaggi e pranzi. E anche Carlo Porcari, presidente del gruppo del PD, 200.000 euro, tutti in menù e coperti. Vabbè, poi c'è anche l'accusa, per tutti l'accusa di peculato, ma Davide Boni, leghista, è anche accusato di truffa, perché lui risulta residente a Sabbioneta Mantova, in realtà si era trasferito a Milano nel 2003, ma otteneva in questo modo 25.000 euro per spese di viaggio. E poi anche accusato di truffa Stefano Galli, sempre leghista, che avrebbe fatto ottenere una consulenza da 200.000 euro al genero, anche lui tra gli imputati. Questo per inciso. A noi questo, vanno a processo, vedremo se saranno sanzionati. Quello che ci interessa è, in un paese che non ha mai fatto degli sprechi la sua vera lotta, vediamo se lo farà adesso, tagliare 100 milioni di euro alle famiglie dei disabili è una vigliaccata totale. E quindi, se non vogliamo andare avanti per dei mesi facendo sentire ogni volta le dichiarazioni del presidente del consiglio Matteo Renzi sull'ice bucket, sulla doccia ghiacciata, perché sennò le rimaniamo in onda ogni giorno, mettete mano a sta cosa. Noi continuiamo. A proposito di soldi, ma qui non stiamo parlando di 100 milioni, qui ballano, come dicono in gergo, 2 miliardi. Parliamo della TAV un attimo. Allora, dicevo all'inizio, noi abbiamo sempre difeso l'accordo internazionale. Se tu firmi un accordo internazionale per i Trans European Network, per i corridoi europei, l'Italia è coinvolta in due corridoi. Uno, il principale, è il Lisbona-Kiev, e da lì la TAV, il corridoio europeo per le merci soprattutto. L'altro è il corridoio 8, ma è diverso, diciamo, coinvolge anche via mare la Puglia. Restiamo sul corridoio 5. Abbiamo sempre difeso, se abbiamo firmato un accordo, i francesi vanno avanti, chiudiamo questo accordo. Però io vorrei capire come mai la TAV complessivamente sale come costo a 12 miliardi di euro, la parte italiana sale come costo da 4,8 miliardi a 7 miliardi, che a casa mia è quasi il 50% in più. Ora, uno può dire, come fece il Presidente del Consiglio, 2 miliardi che sono li troviamo domani, ma in realtà, se poi tagli 100 milioni ai disabili, evidentemente alle famiglie dei disabili, tutti questi soldi a disposizione non li hai. Hai dovuto fare anche la correzione dello 0,3% sul deficit come richiesto dall'Europa, e abbiamo ubbidito. Allora, il tema dei 2 miliardi in più non è tema da poco, anche perché apparentemente l'opera è scoperta per questi 2 miliardi. Devo dire una cosa, oggi i giornali riprendono quella che era stata una indiscrezione, anticipazione del Sole 24 Ore. Alcuni colleghi citano il Sole 24 Ore, altri no, e va bene, dai, questione di stile. Secondo me dovrebbero citarlo tutti, se uno ha un'esclusiva noi lo diciamo sempre, quando l'esclusiva è di qualcuno, di qualche agenzia. Comunque, Maria Chiara Voci del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, buonasera. Dove sei? Dentro la TAV già? Ti sentiamo completamente intubata? Completamente da Torino. Ecco. Sì, Torino, ma non sei ancora entrato alla galleria della TAV. Allora, scusami, la TAV sono 270 chilometri, 81 chilometri italiani, di cui 57 in galleria. Ok, 45 in territorio francese, 12 in territorio italiano. La galleria da 57 chilometri ne ha 45 in territorio francese e 12 in territorio italiano. Parlando della tratta internazionale. Sì, sì, certo, certo. All'Italia compete il circa il 58% del costo complessivo. Sì. Come si è arrivati a 2 miliardi in più? Allora, guarda, i 2 miliardi in più li abbiamo ritrovati io e il collega Alessandro Arona lavorando sui documenti e ci siamo accorti, leggendo l'ultimo contratto di programma di RFI che è stato firmato lo scorso 8 agosto dal Ministro delle Infrastrutture Lupi insieme alla DGFS Michele Elia, leggendo appunto il contratto di programma, documento di cui peraltro il DL Sblocca Italia accelera l'iter, ci siamo resi conto che i numeri non corrispondevano e che rispetto agli 8-3 miliardi sempre dichiarati da LTF come costo per la tratta internazionale della Torino-Lione, si passava invece a circa 12 miliardi, per l'esattezza 11.977 milioni. L'Italia deve farsi carico del 58% di questa spesa, significa quindi che la copertura da garantire non sono i 4-8 miliardi di cui si parlava inizialmente, ma sarebbero 6-9 miliardi. Ovviamente poi da questa cifra si devono scorporare, se così sarà, se l'Europa garantirà un finanziamento al 40% si dovranno scorporare dei soldi, ma anche togliendo il 40% si parla comunque di una spesa di quasi 4,2 miliardi contro 2 miliardi e 9 che fino ad oggi erano sempre dichiarati. Tenendo anche conto che in finanziaria per ora ci sarebbero coperture sui lavori per circa 2,4 miliardi. Però scusami se insisto, ma come mai, perché questa l'ha scoperto, se ho ben capito, Stefano Esposito ha chiesto, che è vicepresidente della Commissione dei Trasporti del Senato, ha chiesto un'audizione urgente al Ministro dei Trasporti Lupi. Leggendo il nostro pezzo, dopo il vostro articolo. No, guarda, su questo sa che... diamo a Cesare quel che è di Cesare, non tutti l'hanno fatto oggi, ma noi sì. Dicevo, come mai si fa un accordo di programma tra Ministero dei Trasporti e RFI, cioè tra lo Stato e lo Stato, non è un privato, qui non si può invocare, qualcuno mi sta scrivendo, ecco le tangenti. No, attenzione, qui non c'è un soggetto privato e una trattativa con un privato, qualcuno cita il MOSE, non c'entra nulla, perché in questo caso l'accordo è Ministero dei Trasporti e RFI, cioè le Ferrovie dello Stato. E come mai si fa un accordo? Tra l'altro nessuno ne era a conoscenza, scopriamo, prego. Il Parlamento, appunto, come dice Stefano Esposito giustamente oggi, non era a conoscenza dei contenuti. Questo accordo, le ragioni diciamo che forse saranno spiegate all'interno di durante questa audizione che è prevista per l'11 di novembre al pomeriggio alla Commissione Trasporti del Senato. Ora i tecnici, Mario Virano in primis, che è coordinatore per la Torino-Lione, il presidente della CIG italiana, lui la spiega dicendo che rispetto al costo iniziale di 8-3 miliardi, che è quello anche dichiarato dall'LTF, in Italia, ragionando in costi cosiddetti correnti, quindi che vengono rivalutati, si è appunto applicato un tasso di rivalutazione al costo iniziale del 3,5% l'anno. Quindi applicando questo tasso di anno in anno si è arrivato a una cifra che è nettamente superiore rispetto a quella di partenza. Ora, perché si sia applicato questo tasso, che comunque è molto alto rispetto a quella che è la situazione, anche vista la crisi economica e visto il costo effettivo del denaro oggi, questo ce lo dovranno spiegare probabilmente. Sì, ripeto, voglio essere chiaro, è tra virgolette una partita di giro interna ai soldi pubblici, no? Nel senso, non c'è un contraente, per quello è sbagliato ed è improprio l'affiancamento col MOSE o con altre vicende, non c'è un soggetto privato, un general contractor che fa lievitare, per il momento speriamo che non li faccia lievitare mai, ma dico, non è questo, è proprio un accordo di programma tra due società dello Stato, o meglio tra il Ministero dei Trasporti e una società interamente a partecipazione pubblica, che vede lievitare i costi. Ecco perché diventa ancora più interessante scoprire come mai vengono applicati, diciamo, dei tassi di rivalutazione di interesse così alti. In questo momento, quindi tu ci stai dicendo però che al di là di questi 2 miliardi di euro l'opera è completamente coperta? L'opera è coperta per circa 2,4 miliardi in legge di stabilità, così dovrebbe essere anche confermato per quest'anno. Quindi vuol dire che 2,4 miliardi sui 2,9 che fino ad oggi si sapeva che l'Italia avrebbe dovuto coprire. Sempre, ovviamente, qua stiamo parlando della tratta internazionale, perché questo è molto importante sulla Torino-Lione, si fa spesso confusione. Qua parliamo della tratta internazionale, cioè del tunnel di base più le due stazioni di Sud, sì, e San Jean de Maurienne più i raccordi con la linea storica. Poi la Torino-Lione è un progetto molto più ampio e molto più complesso, che prevede anche poi parti di linea sul territorio italiano e francese, ma questo è una cosa. No, questo è il tunnel, per fare capire. Per fare capire a tutti, grazie, brave, complimenti a te, Maria Chiara Voci, e al collega Alessandro Arona, per aver scoperto un dettagliuccio, appunto, che si risolve magari in un giorno, ma sono 2 miliardi a casa nostra. Dopo il GR24 andiamo sulla borsa, più 0,19% Milano nel finale, ha recuperato parecchio, ma il Monte dei Paschi vive un'altra giornata di passione, meno 7%. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Due notizie che in realtà non avevamo ancora dato prima di passare alla borsa. Da un lato, il governo francese, una notizia che ha in esclusiva Radio Cor, Sole 24 Ore, battuta poco fa: il governo francese avrebbe deciso di chiudere l'accordo di partenariato con Ecomove, che è il sistema di pedaggiamento per l'ecotassa sui tir. In sostanza, il governo francese aveva affidato ad Atlantia, l'ex società Autostrade per l'Italia, questo appalto. Di fatto avrebbe mandato una lettera di disdetta e poi spiegherà i dubbi sulla validità del contratto alla luce delle norme costituzionali che si applicano allo Stato quando si affida ai privati la gestione di alcune attività. E comunque la volontà di abbandonare il progetto attraverso una risoluzione consensuale vedrebbe corrispondere l'indennità alla società, secondo le cifre pubblicate dalla stampa, l'indennità ammonterebbe a circa 900 milioni. Però lo dico con massimo rispetto: quando c'è lo Stato francese e un gruppo straniero, in questo caso l'italiana Atlantia, che vince un appalto, sospetto di un po' di nazionalismo viene sempre. Invece, per quello che riguarda le vicende italiane, l'ex ministro Tremonti, allora qui va chiarito, è indagato dalla Procura di Milano per corruzione come ministro dell'economia nel 2009 per il versamento di 2,4 milioni al suo studio tributarista da parte di Finmeccanica, controllata dal Tesoro, in cambio, questa è l'accusa, dell'ammorbidimento della propria iniziale contrarietà all'acquisto per 3 miliardi e 400 milioni da parte di Finmeccanica della società DRS Technologies, una cifra altissima che Finmeccanica pagò per questa società. E appunto i PM ipotizzano che Tremonti, inizialmente contrario, si sia fatto convincere grazie al versamento di questi 2 milioni e 400 mila euro allo studio tributarista di cui è un associato. Invece Tremonti ha risposto: non ho mai chiesto o sollecitato nulla in nessun modo a Finmeccanica, e anche per questo ho sempre assoluta fiducia nella giustizia. I carabinieri del nucleo investigativo di Milano hanno perquisito oggi lo studio legale tributario di cui è socio l'ex ministro dell'economia Tremonti. E poi Dario Romagnoli ed Enrico Vitali, soci dello studio Tremonti, Vitali, Romagnoli, Piccardi associati, sono accusati di riciclaggio, ma per un'altra storia, cioè il riciclaggio del denaro di Marco Milanese, l'ex braccio destro di Giulio Tremonti, in un'indagine nata in seguito alle dichiarazioni dell'imprenditore napoletano Paolo Viscione, e non riguardano l'inchiesta su Finmeccanica. C'è stato un po' di confusione anche nelle agenzie e anche dalle fonti giudiziarie di questa mattina. Guido Maurino, Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. La borsa oggi, tra l'altro, la giornata era iniziata molto molto male, e poi è arrivato il PIL americano, di cui parleremo tra poco, a migliorarla. Alla fine anche Milano chiude in positivo, più 0,20%, Francoforte più 0,35%, Parigi più 0,70%, Londra più 0,15%. Monte dei Paschi. Sì, allora è stata un'altra giornata abbastanza pesante per il settore bancario italiano, anche perché questa mattina il presidente dell'EBA, Andrea Enria, ha lanciato questo ammonimento un po' particolare, ha detto anche le banche che hanno superato gli stress test non devono sentirsi sicuro. In un mercato già abbastanza sui nervi rispetto al settore bancario, questa notizia ha fatto precipitare tutti i titoli bancari, e Monte dei Paschi era arrivata a perdere oltre il 16%. Sì, sì. Per quello che riguarda proprio il Monte, c'è poi l'ipotesi che il governo possa cedere i Monte Bond a investitori istituzionali e questi possano convertirli, e questa notizia è stata vissuta negativamente, anche perché la conversione sarebbe a 0,5 euro rispetto a un prezzo di 0,68 euro che era la chiusura di oggi, e quindi, come dire, il titolo sembra quasi voler scivolare verso questa soglia. Sì, tra l'altro si mancava solo che Enria ricordasse anche a tutti noi che dobbiamo morire, e c'eravamo, perché io non capisco, potevamo dargli un gufo in realtà all'inizio del programma, perché non capisco perché dire, oh mi raccomando, anche le banche che hanno superato gli stress test non stiano tranquille, ho capito, cioè nessuno sta tranquillo in questi anni. Comunque, sentivamo la mancanza di altre incertezze sui titoli bancari. Exor più 5% invece. Sì, per quello che riguarda Exor, il titolo ancora ha beneficiato dell'operazione annunciata ieri da Fiat con la quotazione di Ferrari. Exor diventerà il primo socio anche di Ferrari grazie alla distribuzione delle azioni, e anche oggi è andato particolarmente bene, mentre Fiat, dopo il rialzo a due cifre di ieri, ha avuto un andamento molto più tranquillo, anche con alcune prese di beneficio, e ha chiuso poco mossa. Ecco, tra l'altro oggi il ministro Padoan, torniamo sul tema delle banche per un secondo, ha detto che siamo fiduciosi che ci saranno soluzioni di mercato per colmare il fabbisogno di liquidità delle due banche italiane, quindi Cassa e Risparmio di Genova e Monte dei Paschi, bocciate dagli stress test. Le banche che hanno necessità di adeguarsi sono due e non nove, le altre infatti hanno già grandemente aumentato il capitale e sono nella zona di assoluta sicurezza, mentre continuano le polemiche su questi stress test. Noi ne abbiamo parlato subito, e cioè il fatto che vengano penalizzate le banche che prestano soldi a imprese e soggetti, piuttosto quelle che hanno una forte esposizione in derivati e titoli finanziari. Comunque, Eni oggi diffonde i conti dei primi 9 mesi, utile netto adjusted a 3 miliardi 240 milioni di euro, più 3%, e l'utile netto nel trimestre è adjusted, sempre cresce del 2,5%. Sì, sono stati risultati superiori e in parte anche molto superiori alle attese degli analisti, che poi guardavano anche all'annuncio fatto insieme ai conti di un giacimento, di una nuova scoperta nell'offshore del Congo, che ha un potenziale molto significativo, si parla di 750 milioni di euro. E per cui questa doppia notizia, queste due notizie, una relativa ai conti e l'altra relativa a questo giacimento in Congo, hanno fatto sì che il titolo oggi abbia guadagnato bene, ha chiuso a più 1,47%. Ancora tra i titoli voglio segnalare i bancari, che ricordiamo anche i cali, però Monte dei Paschi abbiamo detto meno 7, Banco Popolare meno 2,20, Popolare Emilia Romagna meno 1,50, come la Pop Milano, UbiBanca meno 0,60%, di Eni più 1,47%, abbiamo già detto, Luxottica bene oggi più 2,60%, Unipolsai più 2%, Buzzi Unicem più 1,25%, ST Microelectronics più 1,20%, Pirelli più 1,1%, A2A più 1%. Tra i migliori e peggiori in assoluto troviamo Alcatel Lucent più 15,90%, poi Exor. Piaggio bene più 3,5%, bene anche Stefanel più 4,30%. I peggiori, oltre alla Cassa di Risparmio di Genova, perché ha perso il 10,60% pure oggi, Carraro meno 8,70%. Che è successo? Sì, la società ieri, dopo la chiusura di borsa, ha comunicato con i conti anche la sostituzione dell'amministratore delegato. Ci sarà l'insediamento quindi di Andrea Negri al posto di Bossard, e la notizia è stata vissuta non particolarmente bene dal mercato, anche perché insomma vuol dire che la società si troverà ad affrontare un turnaround, alcuni cambiamenti organizzativi anche per far fronte alla crisi, che l'ha portata fra le altre cose anche a decidere il taglio di 150 unità fra il personale. E poi male anche Dada, meno 7,80%, Poligrafica San Faustino meno 7,50%. Grazie Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Allora, sulla TAV vedo molti messaggi. Non abbiamo mai detto che i lavori li faccia direttamente la rete ferroviaria dello Stato. Abbiamo detto solo che in questo caso non si è trattato di un aumento dell'importo come conseguenza della richiesta del privato che sta eseguendo i lavori, ma di un accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e le Ferrovie dello Stato. È chiaro che poi le Ferrovie dello Stato, RFI per essere precisi, girano i lavori a ditte che li hanno in appalto, però è diverso dire che il contraente hai un incontro Stato-privato, oppure in questo caso due società, o meglio il Ministero dello Stato italiano e una società interamente controllata dallo Stato italiano. Sappiamo benissimo che poi RFI gira i lavori a soggetti appaltanti. Altri mi fanno notare invece sulla vicenda francese che il sistema EcoMove non serve più. Perché da quando il programma di stampaggio di dollari fu varato dalla Banca Centrale Americana a settembre 2012, la Fed, acquistando titoli di Stato e bond, stampava praticamente 85 miliardi di dollari al mese. A dicembre 2013 già era stato ridotto, è stato ridotto già 7 volte, e quello di ieri è stato l'8° taglio, era arrivato a essere, se non ricordo male, 15 miliardi al mese. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora Mario, oggi al di là della Fed c'è il dato sull'economia americana, più 3,5%, più delle attese, che va a sommarsi a una crescita del 4,2% nel secondo trimestre. Cos'è che sta tirando in America? Sta tirando l'economia, stanno tirando un po' tutti i settori, non sta tirando molto bene il settore immobiliare, ma abbiamo una ricostituzione di scorte, abbiamo un settore industriale che sta andando bene. È vero che l'ultimo dato sugli ordini durevoli non è andato molto bene, però è andata bene la fiducia dei consumatori, quindi sta tornando una domanda al consumo piuttosto sostenuta. E sono stati creati 10 milioni di posti di lavoro negli ultimi 4-5 anni, sull'ultimo anno oltre 1,5 milioni di posti di lavoro. Insomma, c'è il momento in cui, superato un certo punto di stallo, a quel punto il traino, che via senza bisogno dell'aiuto del traino finanziario, prende il sopravvento. Ecco, io credo che noi ci troviamo in questo momento, esattamente come dire a metà del guado, e credo che il tempismo della Federal Reserve sia stato un tempismo molto buono. Ecco Mario, rispetto a altre volte, noi abbiamo visto nel passato che quando la Fed iniziava a ridurre lo stampaggio, come lo chiamo io, Wall Street gli mandava dei messaggi minacciosi, cioè la borsa andava giù, andava male, tant'è che ha anche un po' rallentato la Banca Centrale Americana la riduzione di dollari immessi nell'economia. Questa volta mi sembra che ormai il mercato, lo dia per scontato, non si è praticamente mosso su questo. Allora, dunque, il mercato oggi ha reagito molto bene, ieri ha reagito tiepido quando ha visto. Allora, scusa, fammi fare un passo indietro. La fine dell'intervento sul mercato con gli 80 miliardi di dollari al mese devo dire, l'operazione QE3, Quantitative Easing, è stata molto criticata da molti, soprattutto in Europa. Io, come sai, ne abbiamo parlato in passato, invece ero su posizioni più positive e più ottimistiche. Il timore era: finiscono questa operazione, i mercati si agitano, l'economia si indebolisce. Invece nel corso di un anno, meno di un anno, la Fed a colpi di 10 miliardi di dollari al mese ha interrotto, quindi molto gradualmente, questa operazione e le cose sono andate molto bene. È vero che il mercato è stato volatile nelle settimane scorse, ma io credo che la strategia della Fed sia una strategia di atterraggio morbido, cioè di un aggiustamento prima alla fine del quantitative easing e poi a quando i tassi di interesse cominceranno a aumentare. E questo credo che succederà fra aprile e giugno dell'anno prossimo. Soft landing, ti rubo il termine. Soft land. Per finire, che succede? Questo traino secondo me ha aiutato molto, non dimentichiamolo il fatto che i prezzi dell'energia stanno cadendo e che l'America è diventata indipendente dal punto di vista energetico. Lo sta diventando, e la conseguenza qual è? Che oggi con questo dato di crescita del 3,5% il mercato ha fatto più 177 punti, più 1,04% in questo momento, e quindi dico che questo passaggio da un'economia che tira on her own, come si dice, per conto suo, senza bisogno del traino extra finanziario, forse sta succedendo. Questo secondo me. E bisogna dire che si è mossa molto bene, per quello che vale il nostro giudizio, la neo presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, perché, come tu ricordavi, ha avvisato il mercato di quello che stava facendo e lo ha fatto con molta gradualità, per cui ha evitato, facendo calare di 10 miliardi ogni volta, ha evitato scossoni troppo forti, cioè la borsa che reagisce male, così. Li ha avvisati, noi continueremo con questo piano. Ma ci potrebbe troppo lontano ragionare sul fatto di come si possa, e l'America lo dimostra, stampare moneta, aumentare la liquidità, far ripartire un'economia e poi ridurre lo stampaggio, ma questa sarebbe una lezione che ci metteremo una vita a spiegare ai tedeschi e alla Bundesbank. Chiusa questa polemica, tanto sì, non riuscivo a non farla oggi. Però è una polemica giusta, caro Sebastiano. Lo so, ma la faccio ogni giorno. Mi dicono siamo indietro per quella ragione lì, punto. Purtroppo è così. Lo so, ma poi dicono che ho l'ossessione con la Germania, quindi oggi avevo evitato, poi come certe dipendenze uno ci ricasca sempre nel finale. Dalla finestra, quella la porta e dalla finestra. Mario, questo potrebbe, sì, tu godi perché stai lì in America, avete stampato soldi, 1600 miliardi, la disoccupazione è mai così bene da prima della crisi, il PIL riparte, qui siamo tutti con la sindrome della Repubblica di Weimar, come se la colpa fosse stata nostra e non di quel rigore eccessivo che portò la disoccupazione alle stelle e Hitler al potere. Ma ripeto, non mi fa andare troppo fuori tema. Barack Obama, perché te lo cito? Perché insomma, la popolarità del presidente mi sembra ai minimi, lui ormai rischia di entrare nel cono d'ombra dell'ultima parte del suo mandato. Questo dato economico può far risalire i democratici o no? Ma guarda, non credo, abbiamo come sai un appuntamento elettorale importante martedì prossimo, il 4 novembre, le elezioni del midterm, il rinnovo della Camera e del Senato, il rinnovo del Congresso, tutta la Camera, 435 deputati, 435 in America contro i 600 e passa che abbiamo noi, e un terzo del Senato. Qual è il pronostico? Che i repubblicani possano conquistare anche il Senato, o comunque ridurre di molto la maggioranza democratica al Senato, e avviarci, come dicevi tu, verso un lame duck period, quindi un periodo di anatra zoppa per gli ultimi due anni di Obama, in cui è tutto dei repubblicani, la Casa Bianca e dei democratici, chissà che l'idea di un compromesso non possa, diciamo che questa situazione in cui devono per forza negoziare un compromesso non possa consentire a tutti di fare dei passi in avanti. La domanda è, questo dato aiuterà all'ultimo istante Obama? Non credo. Perché ci sono stati dati positivi su ogni fronte, anche nel settore manifatturiero che ha aggiunto 700.000 posti di lavoro in 3-4 anni, già da due anni a questa parte, è da due anni che le cose vanno bene in America, è da due anni che l'indice di borsa si è ripreso, ha superato i vecchi record storici e così via, così via. Eppure la crisi di sfiducia nella leadership di Obama in questo caso non è tanto per l'economia ma quanto per uno la riforma sanitaria che si è concluso che è stata fatta male, che non funziona, e poi il tempo dirà. e l'altro fronte della politica estera ha messo gli Stati Uniti, che dovrebbero essere il leader mondiale, il gestore dell'ordine mondiale della stabilità, in una posizione molto difensiva. E noi ci accorgiamo oggi, con quello che capita a livello internazionale, e che cosa succede quando non c'è un punto di riferimento forte. Finora lo sono sempre stati gli Stati Uniti, e con Obama c'è stato un passo indietro, e di questo gli americani se ne accorgono, il business americano se ne accorge, è un messaggio forte, credo, per le prossime elezioni, ma per questo Obama soffre sul piano personale. Allora, grazie anche a Mario Pratero in collegamento con noi da New York. L'America in questo momento continua a guadagnare l'1% e l'euro su dollaro, me lo chiedete, avete ragione, non l'abbiamo dato oggi, è di nuovo vicino a quota 1,25, a 1,26 e 1. È tutto per questa puntata di Focus Economia, noi torniamo domani dalle 17 in poi, intanto da Sebastiano Barisoni come sempre un augurio di buona serata. Radio 24, la passione si sente.